ti rompe il coglione notte e giorno. L'hai capito? Che mi rompi i coglioni? Non ti basta il baracchino, vero? Non ti basta rompere il coglione al baracchino? Brutto coglione! Più fai che stanotte mi diverto con tua madre. Non ti rompere tu. Il baracchino, vero? Ma continua, che stanotte mi diverto io. Pronto? Brutto coglione che non sei altro. Venga a mettere, coglione. Brutto ma tua madre non c'è? Figlio di puttana proprio. Ho parlato con tuo padre? Eh? Il padre.